Questo stato di quiete non poteva durare per molti giorni, o forse neanche per molte ore, così il dottor Donaldson disse con certezza a Margaret. Dopo che il gentile dottore se ne fu andato, andò di nascosto da Frederick, che durante la visita era stato scongiurato di rimanere nascosto in silenzio nel salottino sul retro, normalmente la camera da letto di Dixon, che però adesso era stata assegnata a lui. Margaret gli riferì quello che aveva detto il dottor Donaldson. Non ci credo, esclamò. È molto malata, magari è gravemente malata, persino in imminente pericolo, ma non posso immaginare che possa essere così e che sia in punto di morte, Margaret. Ci vorrebbe il parere di altri, di qualche medico di Londra. Non ci hai mai pensato? Sì, disse Margaret, più di una volta, ma non credo che servirebbe. Poi, lo sai, non abbiamo soldi per far venire qui i famosi chirurghi di Londra e sono certa che quanto a competenza il dottor Donaldson sia soltanto secondo ai migliori, se non in realtà pari a loro. Frederick si mise a camminare impaziente su e giù per la stanza. Ho dei soldi a Cadice, disse, ma non ho niente qui per via di questo maledetto cambio di nome. Ah, oh, perché mio padre ha lasciato Helston? È stato questo l'errore. Non è stato un errore, disse Margaret con voce mesta, e soprattutto tra tutte le svariate possibilità, fai in modo che tuo padre non senta niente di simile a quello che hai appena detto. È molto evidente che l'idea che la mamma non si sarebbe mai ammalata se fossimo rimasti a Helston lo tormenta già abbastanza e non conosci il potere straziante del rimorso di papà. Frederick se ne andò, camminando come se fosse sul ponte di poppa. Alla fine si fermò proprio di fronte a Margaret, osservando per un attimo il suo atteggiamento scoraggiato e abbattuto. Oh, mia piccola Margaret, disse accarezzandola, finché possiamo sperare, facciamolo, povera donna. Cosa c'è? Cos'è questo visino tutto pieno di lacrime? Io avrò speranza, lo farò, che ne dicano mille dottori. Fatti forza, Margaret, sii coraggiosa e spera. Margaret quasi soffocò nel tentativo di parlare e quando ci riuscì la sua voce era molto cupa. Devo cercare di mettermi l'animo abbastanza in pace ed avere fiducia. Oh, Frederick, mamma stava iniziando a volermi così bene e io stavo iniziando a capirla e adesso arriva la morte a separarci l'una dall'altra. Vieni, dai, vieni, andiamo di sopra e facciamo qualcosa invece che perdere del tempo che può essere prezioso. Il pensare troppo mi ha rattristato tante volte, tesoro, ma con il fare non è mai successo in tutta la mia vita. La mia teoria è una sorta di parodia della massima che dice fai i soldi, figliolo, se puoi fallo onestamente, ma fallo. La mia regola è fai qualcosa, sorellina, fai del bene se puoi, ma in ogni caso fai qualcosa. Compresa qualche malefatta, disse Margaret un po' sorridendo tra le lacrime. Oh, senza dubbio. Quello che però escludo è il rimorso dopo. Nascondi le tue malefatte se sei particolarmente coscienziosa, dietro a una buona azione, prima che puoi. Proprio come quando a scuola facevamo la somma giusta sulla lavagnetta, dopo che quella sbagliata era stata cancellata solo per metà. Era meglio che bagnare la spugnetta di lacrime, no? In entrambi i casi, dove non ci sono lacrime, non ci sono perdite di tempo e il risultato alla fine è migliore. Se all'inizio Margaret considerava rude la teoria di Frederick, vide poi come la metteva in pratica, facendo di fatto continuamente del bene. Dopo una nottataccia con sua madre, poiché insistette per fare il suo turno per la veglia, ancora prima di fare colazione, la mattina successiva era impegnato ad architettare un poggiapiedi per Dixon, che stava iniziando ad accusare le fatiche della veglia. A colazione catturò l'attenzione del signor Hale con i suoi numerosi resoconti vividi e dettagliati sulla vita sregolata che aveva fatto in Messico, in Sud America ed altre parti. In preda alla disperazione, Margaret avrebbe rinunciato alla fatica di sollevare il signor Hale dal suo sconforto. Lei ne sarebbe stata addirittura influenzata e non sarebbe più riuscita a dire nulla, ma Fred, fedele alla sua teoria, faceva sempre qualcosa e conversare era l'unica cosa che si faceva a colazione, a parte mangiare. Ma prima che fosse buio, l'opinione del dottor Donaldson si rivelò essere fin troppo fondata. Arrivarono le convulsioni e quando finirono, la signora Hale perse conoscenza. Suo marito poteva anche stare disteso accanto a lei, facendo tremare il letto con i suoi singhiozzi. Le forti braccia di suo figlio potevano anche sollevarla dolcemente per farle assumere una posizione più comoda. Le mani di sua figlia potevano bagnarle il viso, ma lei non se ne accorgeva. non li avrebbe mai più riconosciuti finché non si fossero rincontrati in paradiso. Prima dell'alba era tutto finito. Quindi Margaret si sollevò dal suo timore e dallo sconforto e diventò forte come l'angelo della consolazione per suo padre e suo fratello. Infatti Frederick era completamente distrutto e non gli servivano a niente ora tutte le sue teorie. Quando quella notte restò da solo, chiuso nella sua piccola stanza, pianse così forte che Margaret e Dixon scesero giù di corsa per dirgli che non doveva farsi sentire. Dato che le pareti della casa erano molto sottili e i vicini avrebbero potuto facilmente sentire gli appassionati singhiozzi di un giovane, così diversi dalla lenta e fiacca agonia dell'età avanzata, quando si è più abituati al dolore e non ci si permette di ribellarsi contro l'inesorabile fato sapendo chi lo stabilisce. Margaret restò seduta con il padre nella stanza dove era la salma. Sarebbe stata contenta se lui si fosse messo a piangere. Sedeva, invece, accanto al letto, piuttosto tranquillo. Si limitava a scoprirle il volto di tanto in tanto per accarezzarlo dolcemente, mettendo una specie di mugolio come quello di un animale che coccola con attenzione materna il suo cucciolo. Non si accorse che Margaret era lì. Una o due volte gli si avvicinò per dargli un bacio e lui la lasciò fare allontanandola un pochino dopo che glielo aveva dato, come se il suo affetto lo distogliesse dalla sua totale dedizione alla defunta. Trasalì quando sentì il pianto di Frederick e scosse la testa. Povero ragazzo, disse, e poi non ci fece più caso. Margaret soffriva dentro di sé. Non riusciva a meditare sulla sua personale perdita, pensando alla situazione del padre. La notte aveva consumato il suo tempo e il giorno era vicino, quando, senza aver preparato alcun discorso, la voce di Margaret ruppe il silenzio della stanza con un suono di una chiarezza tale che persino lei sussultò. Non sia turbato il vostro cuore, disse, e proseguì con fermezza per tutto quel capitolo di inesprimibile consolazione. 31. Domani tu mi lascerai. La gelida mattina di ottobre arrivò. Non la mattina di ottobre in campagna con soffici nebbioline color argento che si diradano prima che i raggi del sole facciano risaltare tutta la magnifica bellezza dei colori, ma la mattina di ottobre a Milton, le cui foschie argentate erano invece nebbie dense e dove il sole, quando spuntava e splendeva, poteva mostrare soltanto lunghe strade cupe. Margaret gironzolava con aria apatica, aiutando Dixon a sistemare la casa. Aveva gli occhi continuamente accecati dalle lacrime, ma non aveva tempo di lasciarsi andare a un vero e proprio pianto. Il padre e il fratello facevano affidamento su di lei, mentre loro davano sfogo al dolore. Lei doveva lavorare, pianificare, riflettere. Persino i preparativi necessari per il funerale parevano dover essere compito suo. Quando il fuoco fu ben acceso e scoppiettante, quando tutto fu pronto per colazione e il bollitore del tè stava fischiando, Margaret diede un'ultima occhiata alla stanza prima di andare a chiamare il signor Hale e Frederick. Voleva che tutto apparisse più allegro possibile, tuttavia, mentre la osservava, il contrasto tra la stanza e i suoi pensieri la fecero improvvisamente scoppiare in lacrime. Era in ginocchio per terra vicino al divano e si nascondeva la faccia tra i cuscini affinché nessuno potesse sentirla piangere quando Dixon le toccò la spalla. Su, signorina, venite, mia cara. Non dovete cedere, altrimenti che ne sarà di noi? Non c'è nessun altro in casa in grado di dare ordini di qualche tipo e ci sono tante cose da fare. C'è da decidere chi celebrerà il funerale, chi bisogna avvisare e dove avrà luogo, e bisogna sistemare tutto il resto. Il padroncino Frederick piange come un pazzo e il padrone non è mai stato bravo a prendere decisioni e, pover'uomo, gira per casa come se fosse perso. Ah, è terribile, mia cara, lo so, ma tutti dobbiamo morire e siete stata fortunata a non avere mai perso nessuna persona cara finora. Forse. Ma questa era una perdita tale che nessun'altra al mondo poteva reggerne il confronto. Margaret non si sentì per nulla sollevata dalle parole di Dixon, ma l'insolita tenerezza nei modi dell'anziana e cerimoniosa domestica le toccò il cuore e quindi, per mostrarle la sua gratitudine, per questo più che per qualsiasi altro motivo, si alzò e le sorrise in risposta al suo sguardo preoccupato e andò ad annunciare ai suoi cari che la colazione era pronta. Il signor Hale arrivò come se fosse dentro un sogno, o meglio muovendosi inconsciamente come un sonnambulo, i cui occhi e la cui mente percepiscono cose diverse dalla realtà. Frederick arrivò sforzandosi di mostrare vivacità e allegria. Le afferrò la mano, la guardò negli occhi e scoppiò in lacrime. Margaret dovette cercare di pensare a piccole sciocchezze da dire per tutta la durata della colazione per evitare che i suoi commensali ritornassero troppo con il pensiero all'ultimo pasto che avevano fatto insieme, sempre intenti a sentire con una certa tensione un suono o un segnale dalla camera della malata. Dopo colazione, decise di parlare con il padre del funerale. Scuoteva il capo, approvando tutto quello che lei proponeva, anche se molte delle sue affermazioni si contraddicevano completamente l'una con l'altra. Margaret non ottenne nessuna vera decisione da parte sua e stava uscendo con passi lenti dalla stanza per andare a consultarsi con Dixon, quando il signor Hale le disse di tornare indietro e di sedersi accanto a lui. «Chiedi al signor Bell», disse con voce cupa. «Il signor Bell?» replicò leggermente sorpresa Margaret. «Il signor Bell di Oxford?» «Il signor Bell», ripeté, «sì, è stato il mio testimone di nozze». Ah, Margaret colse l'associazione. «Gli scriverò oggi stesso», disse, e lui sprofondò di nuovo nella sua apatia. Lei lavorò sodo per tutta la mattina, risucchiata da un vortice di faccende malinconiche, ma non vedeva l'ora di riposare. Verso sera, Dixon le disse, «Ho finito, signorina. Avevo davvero paura che al padrone venisse un colpo per il dolore. È stato tutto il giorno con la povera padrona e quando mi sono messa sulla porta ad ascoltare l'ho sentito che le parlava e continuava a parlarle come se fosse ancora viva. Quando sono entrata era calmo, calmo, come se fosse in uno stato confusionario. Così ho pensato tra me e me, bisogna ridestarlo. E se all'inizio sarà un duro colpo per lui, poi magari sarà la cosa giusta». Così sono andata lì e gli ho detto che non penso sia sicuro per il padroncino Frederick stare qui. E infatti è così. Martedì, mentre ero fuori, ho incontrato un tipo di Southampton, il primo che ho visto da quando siamo venuti a Milton. Credo che non ne vengano molti fin quassù. Insomma, era il giovane Leonards, il figlio del vecchio drappiere Leonards, la peggiore canaglia che si sia mai vista al mondo, che ha tormentato quasi a morte suo padre e poi si è arruolato in marina. Non l'ho mai sopportato. Era sull'Orion, nello stesso periodo del padroncino Frederick, lo so, anche se non ricordo se era lì quando ci fu l'ammutinamento. «Oh, e ti ha riconosciuta?» disse Margaret con tono impaziente. «Beh, adesso viene il peggio. Sono sicura che non mi avrebbe mai riconosciuta se io non fossi stata così stupida da chiamarlo per nome, solo perché era uno di Southampton, in un posto sconosciuto, altrimenti non sarei mai stata così disposta a rivendicare un'affinità con quello lì, un villano buono a nulla». E lui mi fa: «Signorina Dixon, chi l'avrebbe mai pensato di vedervi qui? Ma forse mi sbaglio, non siete più la signorina Dixon?» Così gli ho detto che poteva ancora chiamarmi signorina, se non fossi stata così esigente avrei avuto buone occasioni di sposarmi. «È stato abbastanza gentile, non ho alcun dubbio», ha detto. «Ma non sono certo una che si fa ingannare con facilità da un tipo come lui, e così gliel'ho detto, e per essere pari gli ho chiesto come stava suo padre, quando sapevo che lo aveva sbattuto fuori di casa, come se non fossero mai stati così amici come ora. E allora lui, per indispettirmi, perché vedete ci stavamo arrabbiando, per quanto fossimo così educati l'un con l'altra, ha iniziato a chiedermi del padroncino Frederick, e ha detto che si era cacciato in un brutto guaio, come se i guai del padroncino coprissero di calce bianca quelli di George Leonards, o li facessero sembrare di un colore diverso dall'orribile sudicio nero, che sarebbe stato impiccato per ammutinamento se mai lo avessero preso, che sono state offerte 100 sterline di ricompensa a chi lo trova, e che era stata una grande disgrazia per la sua famiglia. Tutto per dispetto, perché vedete, mia cara, in passato ho aiutato il vecchio signor Leonards a dare a Giorgio una bella lavata di capo giù a Southampton. Così ho detto che c'erano altre famiglie che conoscevo, che avevano molti più motivi di vergognarsi dei propri figli e che dovevano ringraziare se potevano pensare che si stavano guadagnando onestamente da vivere lontano da casa. E lui ha risposto, da ragazzo sfrontato qual è, che aveva una posizione rispettabile e che conoscevo qualche giovane che aveva avuto la sfortuna di prendere una brutta strada e che volesse ritornare sulla retta via, non avrebbe esitato a prenderlo sotto la sua protezione. Ah, lui, proprio lui, che corromperebbe un santo. Erano anni che non mi sentivo così male come l'altro giorno mentre stavo lì a parlare con lui. Mi veniva da piangere al pensiero di non riuscire a infastidirlo di più perché continuava a ridermi in faccia, come se prendesse sul serio i miei complimenti e vedevo che non gli interessava per niente quello che dicevo, mentre io andavo su tutte le furie per le sue chiacchiere. Ma non gli hai detto niente di noi, di Frederick? Oh, io no, di certo, disse Dixon. Non ha mai avuto il garbo di chiedermi dove vivevo e non glielo avrei detto se me lo avesse chiesto, né io gli ho chiesto quale fosse la sua preziosa posizione. Stava aspettando l'omnibus e ne è arrivato proprio uno in quel momento e lui lo ha fermato con un cenno, ma per tormentarmi fino alla fine si è voltato prima di salire e ha aggiunto: Se riuscirete ad aiutarmi a catturare il tenente Hale, signorina Dixon, ci spartiremo la ricompensa. So che vi piacerebbe, non è così? Non siate ritrosa, accettate. Ed è balzato sull'omnibus e io ho visto la sua brutta faccia che mi guardava con un'espressione maliziosa e un sorriso malvagio, pensando che l'aveva data lui l'ultima pizzicata. Ah! Il racconto di Dixon rese Margaret profondamente inquieta. L'hai detto a Frederick? No, rispose Dixon. Ero tutta turbata al pensiero di sapere che quel mascalzone di Leonard era in città, ma c'erano così tante altre cose a cui pensare che non mi sono affatto soffermata su quest'idea. Ma quando ho visto il padrone che sedeva così teso e con gli occhi sbarrati e tristi, ho pensato che potesse scuoterlo un po' dover pensare per un momento alla sicurezza del padroncino Frederick, e così gliel'ho detto. Arrossendo, mentre raccontavo di come un giovane si era rivolto a me, e gli ha fatto bene. E se vogliamo che il padroncino Frederick non venga scoperto, dovrebbe andarsene, poverino, prima che arrivi il signor Bell. Oh, il signor Bell non mi preoccupa, ma temo questo Leonards. Devo dirlo a Frederick. Che aspetto aveva Leonards? Un aspetto orribile, ve lo assicuro, signorina, con delle lunghe basette talmente rosse che al posto suo io mi vergognerei di portarle così. E nonostante abbia detto di avere una posizione rispettabile, era vestito di fustagno, proprio come un operaio. Era chiaro che Frederick doveva andare via. Andarsene proprio quando si era ripreso così pienamente il suo posto in famiglia e aveva promesso di essere un sostegno e un punto fermo per suo padre e sua sorella. Andarsene quando le sue attenzioni per la madre, ancora in vita, e il dolore per la sua morte lo rendevano una di quelle persone speciali che un complice affetto lega a noi proprio perché ci vengono portate via. Proprio mentre Margaret pensava a tutto questo, seduta davanti al fuoco del salotto, suo padre era preoccupato e inquieto, oppresso da questa nuova paura della quale non aveva ancora parlato. Frederick entrò. La sua giovialità era diminuita, ma l'estrema violenza del suo dolore era passata. Andò da Margaret e le diede un bacio sulla fronte. Hai un aspetto così affaticato, Margaret, disse a bassa voce. Tu stai pensando a tutti e nessuno pensa a te. Sdraiati qui sul divano. Non c'è più niente che devi fare. Oh, che è ancora peggio, disse Margaret con un triste sospiro. Ma si andò a distendere e il fratello le coprì i piedi con uno scialle e poi si sedette per terra accanto a lei. I due si misero a parlare con tono dimesso. Margaret gli raccontò tutto quello che Dixon le aveva riferito sull'incontro con il giovane Leonards. Frederick serrò le labbra per lo sgomento e borbottò qualcosa. Oh, vorrei proprio mettere in chiaro le cose una volta per tutte con quel giovane. Non ho mai visto marinaio peggiore a bordo di una nave e nemmeno uomo peggiore. Lo giuro, Margaret, sei al corrente di tutta la faccenda? Sì, la mamma me l'ha raccontata. Beh, quando i marinai più validi e capaci si indignarono per il nostro capitano, questo tizio, per ringraziarselo, puah, e pensare che è qui adesso, oh, se avesse saputo che ero a meno di 20 miglia da lui, mi avrebbe stanato per farmi pagare i vecchi rancori. Vorrei che le 100 sterline che pensano che io valga andassero a chiunque piuttosto che a quel mascalzone. Che peccato che non sia riuscito a convincere la povera vecchia Dixon a consegnarmi e a farsi un fondo per la vecchiaia. Oh, Frederick, taci, taci, non parlare così. Il signor Hale andò verso di loro, impaziente e preoccupato. Aveva sentito quello che si stavano dicendo. Prese la mano di Frederick tra le sue. Ragazzo mio, devi andare. È un grande dolore, ma penso che tu debba andare. Hai fatto tutto quello che hai potuto. Le sei stato di conforto. Oh, papà, deve proprio. Disse Margaret con tono di supplica, sebbene anche lei fosse convinta di quella necessità. Giuro, Ho intenzione di affrontarlo e di essere processato se solo riuscissi a raccogliere le prove. Non posso sopportare l'idea di essere in balia di un farabutto come Leonard's. Mi avrebbe quasi divertito in altre circostanze questa visita rubata. In altre circostanze avrebbe avuto tutto il fascino che una dama francese attribuisce a piaceri proibiti. Uno dei miei primi ricordi, Fred, disse Margaret, fu quando ti misero in castigo per aver rubato delle mele. Ne avevamo tantissime, alberi pieni, zeppi, ma qualcuno ti aveva detto che la frutta rubata ha un sapore più dolce e così l'hai preso au pied de la lettre e via a rubare. Le tue emozioni non sono cambiate molto da allora. Sì, devi andare, ripeté il signor Hale, rispondendo a quella domanda che Margaret aveva fatto un po' di tempo prima. I suoi pensieri erano fissi su un unico obiettivo, ovvero sullo sforzo che doveva fare per seguire gli articolati commenti dei suoi figli, uno sforzo che non fece. Margaret e Frederick si guardarono. Quell'immediata empatia non gli sarebbe più appartenuta se lui se ne fosse andato. Quello che si dissero con lo sguardo non poteva essere tradotto in parole. Entrambi inseguirono lo stesso pensiero fino a perderlo in un'amara tristezza. Frederick se ne liberò per primo. Sai, Margaret, stavo quasi facendo prendere un bello spavento a Dixon oggi pomeriggio. Io stesso mi sono spaventato. Ero in camera mia, avevo sentito suonare alla porta d'ingresso, ma pensavo che il visitatore avesse già fatto quello che doveva fare e se ne fosse andato, così stavo per fare la mia comparsa in corridoio, quando, mentre aprivo la porta della mia stanza, ho visto Dixon che veniva di sopra. Si è accigliata e con un calcio mi ha ricacciato di nuovo nel mio nascondiglio. Ho tenuto la porta aperta e ho sentito che dicevano qualcosa a un uomo che si trovava nello studio di mio padre, che poi se n'è andato. Chi poteva essere? Un bottegaio? Probabilmente sì, disse Margaret con indifferenza. Un omino taciturno è venuto a prendere degli ordini più o meno alle 2. Oh, ma questo non era un omino, anzi, era un tipo decisamente possente ed era qui dopo le 4. Era il signor Thornton, disse il signor Hale. Erano contenti di essere riusciti a coinvolgerlo nella conversazione. Il signor Thornton? Disse Margaret, leggermente sorpresa. Pensavo. Allora, piccola mia, cosa pensavi? Chiese Frederick, dato che lei non aveva finito la frase. Oh, è solo che, disse arrossendo e guardandolo dritto negli occhi, ho pensato che ti riferissi a qualcuno di un'altra classe, non a un gentiluomo, ma a un fattorino. Sembrava un tipo così, disse Frederick con noncuranza. L'ho preso per un bottegaio, invece si è rivelato un industriale. Margaret restò in silenzio. Si ricordò che all'inizio, prima di conoscerlo, aveva parlato di lui e l'aveva considerato proprio come stava facendo Frederick. Era soltanto una naturale impressione che si poteva avere di lui, eppure ne era lievemente infastidita. Non aveva voglia di parlare. Voleva solo far capire a Frederick che tipo di persona fosse, eppure la sua lingua era legata. Il signor Hale continuò: è venuto per offrirci tutto il suo aiuto, credo, ma io non ce l'ho fatta a vederlo. Ho detto a Dixon di chiedergli se voleva vedere te. Mi pare di averle chiesto di cercarti e che ci saresti andata tu da lui. Non so cosa ho detto. È un gran buon amico, vero? Chiese Frederick, porgendo la domanda come se lanciasse in aria una palla per chi volesse prenderla. Un amico molto premuroso, disse Margaret, quando vide che suo padre non rispondeva. Frederick rimase zitto per un po' e alla fine disse: Margaret, mi addolora pensare che non potrò mai ringraziare le persone che si sono dimostrate gentili con te. Le tue amicizie e le mie devono essere separate, a meno che di fatto non corra più i rischi di una corte marziale o che tu e mio padre non veniate in Spagna. Tirò fuori quest'ultimo suggerimento come per tastare il terreno e poi improvvisamente si lanciò. Oh, non sapete quanto vorrei che lo faceste. Ho un buon lavoro, possibilità di uno migliore. Continuò arrossendo come una fanciulla. Quella Dolores Barbour di cui ti stavo raccontando, Margaret, se solo la conoscessi, sono sicuro che ti piacerebbe. No, il verbo giusto è adorare. Piacere è così misero. La adoreresti, papà, se la conoscessi. Non ha ancora 18 anni. Ma se sarà d'accordo, il prossimo anno sarà mia moglie. Il signor Barbour fino ad allora non ci permetterà di chiamarlo fidanzamento, ma se veniste trovereste amici dappertutto, oltre a Dolores. Pensaci, papà. Margaret, stai dalla mia parte. No, niente più traslochi per me, disse il signor Hale. Un solo trasloco mi è costato la vita di mia moglie. Mai più un trasloco in questa vita. Lei sarà qui e qui io starò fino alla fine dei miei giorni. Oh, Frederick, disse Margaret, dici qualcos'altro di lei. Non ho mai pensato a questa cosa, ma sono così contenta. Avrai qualcuno che ti amerà e si prenderà cura di te laggiù. Raccontaci tutto.